affinché appaia che questa potenza straordinaria proviene da Dio e non da noi. Siamo tribolati da ogni parte, ma non schiacciati, incerti, ma non disperati, cacciati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi, portando sempre e dovunque la morte di Gesù nel nostro corpo, perché anche la vita di Gesù sia manifestata nel nostro corpo. Sempre, infatti, pur essendo vivi, noi veniamo esposti alla morte a motivo di Gesù, affinché anche la vita di Gesù sia manifestata nella nostra carne mortale. E così è la morte ad operare in noi e la vita in voi. Animati tuttavia da quello spirito di fede di cui sta scritto: «Ho creduto, perciò ho parlato», anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui il quale ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci metterà accanto a Lui insieme con voi. Che tutto si compia per voi, affinché la grazia, abbondando, moltiplichi in molti l'inno di lode alla gloria di Dio. Per questo non ci perdiamo d'animo, ma se anche il nostro uomo esteriore cade in sfacelo, il nostro uomo interiore si rinnovella di giorno in giorno, poiché il minimo di sofferenza attuale ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria, giacché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose visibili sono d'un momento, quelle invisibili eterne. Sappiamo infatti che quando si smonterà la tenda di questa abitazione terrena, riceveremo una dimora da Dio, abitazione eterna nei cieli, non costruita da mani di uomo. Perciò sospiriamo in questa tenda, desiderosi di rivestire la nostra dimora celeste, se però saremo trovati spogli, non nudi. E quanti siamo nella tenda, sospiriamo come sotto un peso, non volendo venire spogliati, ma sopravvestiti, affinché ciò che è mortale venga assunto dalla vita. È Dio che ci ha fatti per questo e ci ha dato la caparra dello Spirito. Perciò, ripieni sempre di coraggio e sapendo che finché abitiamo nel corpo siamo esuli dal Signore, poiché camminiamo nella fede e non ancora nella visione, pieni di fiducia preferiamo esulare dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne usciamo, ci studiamo di essere graditi a Lui, poiché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la retribuzione delle opere compiute col corpo, premio o castigo. Avendo dunque il timore del Signore, cerchiamo di persuadere gli uomini e siamo chiari davanti a Dio, e spero di esserlo anche davanti alle vostre coscienze. Non che incominciamo di nuovo a raccomandarci a voi, ma è per darvi motivo di vanto per noi, da opporre a quelli il cui vanto è esteriore e non nel cuore. Se infatti siamo stati fuori di senno, lo fu per Dio, e se siamo ragionevoli, è per voi. L'amore di Cristo ci spinge al pensiero che uno morì per tutti, e quindi tutti morirono, e morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Quindi ormai non conosciamo più nessuno secondo la carne, e anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così. Quindi se uno è in Cristo è creatura nuova, le vecchie cose sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. E tutto è da Dio, il quale ci ha riconciliati con sé mediante Cristo ed ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. È stato Dio infatti a riconciliare con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. Noi fungiamo quindi da ambasciatori per Cristo ed è come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo in nome di Cristo, riconciliatevi con Dio. Colui che non conobbe peccato, egli lo fece peccato per noi, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. E poiché siamo Suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. Egli dice infatti: «Al momento favorevole ti ho esaudito,

Vogliamo poi manifestarvi, o fratelli, la grazia di Dio accordata alle chiese della Macedonia. Nonostante la lunga prova della tribolazione, la loro gioia è grande e la profonda povertà in cui si trovano ha traboccato della ricchezza della loro generosità. Posso testimoniare che hanno dato secondo le loro forze e anche più delle loro forze, spontaneamente, chiedendoci con insistenza alla grazia di prendere parte a questo servizio a favore dei santi, più di quanto non avremmo osato sperare, offrendosi prima al Signore e poi a noi, conforme alla volontà di Dio. Onde abbiamo pregato Tito di portare a compimento fra voi quest'opera di benevolenza, lui che l'aveva incominciata. Su dunque, come vi segnalate in ogni cosa, nella fede e nella parola, nella dottrina e in ogni zelo e nella carità che vi abbiamo insegnato, così distinguetevi anche in quest'opera di benevolenza. Non ve ne faccio un obbligo, ma vorrei provare, alla stregua dello zelo degli altri, la sincerità della vostra carità. Conoscete la benevolenza del Signore nostro Gesù Cristo. Da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi della sua povertà. È un consiglio che vi do. Si tratta di cosa vantaggiosa per voi, che fin dall'anno passato siete stati i primi non solo a intraprenderla, ma a desiderarla. Ora dunque realizzatela, perché come vi fu la prontezza del volere, così anche vi sia il compimento secondo i vostri mezzi. Se infatti c'è la prontezza del volere, essa riesce gradita secondo quello che si possiede, non secondo quello che non si possiede. Non si tratta invero di disagiare voi per sollevare gli altri, ma perché vi sia eguaglianza. Nel momento attuale, la vostra abbondanza scenda sulla loro indigenza, onde vi sia eguaglianza come sta scritto. Chi aveva molto non ne soverchiò, e chi aveva poco non sentì la mancanza. Siano rese grazie a Dio che infonde la medesima sollecitudine per voi nel cuore di Tito. Egli ha accolto l'invito e, pieno di zelo, è partito spontaneamente per venire da voi. Abbiamo mandato con lui il fratello che ha lode in tutte le chiese a motivo del Vangelo. Egli è stato designato dalle chiese come nostro compagno in quest'opera di benevolenza che stiamo realizzando per la gloria del Signore e per l'impulso del nostro cuore. Vogliamo evitare che qualcuno possa biasimarci per queste somme che vengono amministrate da noi. Ci preoccupiamo infatti di comportarci bene non soltanto davanti al Signore, ma anche davanti agli uomini. Con loro abbiamo inviato anche il nostro fratello, di cui abbiamo più volte sperimentato lo zelo in molte circostanze, ed è ora più zelante che mai per la grande fiducia che ha in voi. Tito è dunque mio compagno e collaboratore presso di voi. I nostri fratelli sono delegati delle chiese, gloria di Cristo. Date dunque a loro la prova del vostro affetto e della legittimità del nostro vanto per voi davanti a tutte le chiese. Riguardo poi a questo servizio in favore dei santi, è superfluo che ve ne scriva. Conosco bene la vostra disposizione e ne faccio vanto con i macedoni, dicendo che l'Acaia è pronta fin dallo scorso anno, e già molti sono stati stimolati dal vostro zelo. Ho mandato ai fratelli perché il nostro vanto per voi su questo punto non abbia a dimostrarsi vano, ma siate realmente pronti, come io andavo dicendo, e non avvenga che, venendo con me dei macedoni, vi trovino impreparati, e noi dobbiamo arrossire, per non dire voi, di questa fiducia. Abbiamo quindi ritenuto necessario invitare i fratelli a precederci presso di voi per organizzare la vostra offerta già menzionata, affinché sia pronta come una vera largizione e non come una estorsione. Ricordate, chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà, e chi semina con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo che ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza. Dio ama il donatore gioioso, e Dio può riversare su di voi ogni sorta di grazie, cosicché, avendo ogni autosufficienza in tutto e sempre, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene, come sta scritto. Largheggiò, donò ai poveri, la sua giustizia dura nei secoli. E colui che somministra la semente al seminatore e il pane per il nutrimento, somministrerà e moltiplicherà a voi la semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia. Allora sarete ricchi per ogni largizione, e questa farà salire a Dio l'inno del ringraziamento per merito vostro.